English Bit di Giulia Crivelli. Horn. Zuckerberg and Dorsey lock horns in run-up to Trump fact-checking order. La sfida tra Donald Trump e Twitter è finita sulle prime pagine di tutti i giornali americani e anche di Financial Times, che ha titolato Zuckerberg e Dorsey si sfidano a duello per via della decisione di procedere con il fact-checking dei tweet di Trump. La vicenda, per chi non l'avesse seguita, è legata alla quantità di tweet del presidente americano, che spesso contengono fatti non comprovati, anzi, bugie. Twitter ha deciso di inserire un'avvertenza. Trump si è infuriato. Il fondatore del social network, Jack Dorsey, non vuole fare marcia indietro. Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, sostiene invece che non stia ai social network controllare la veridicità di ciò che postano gli utenti. Ed eccoci all'espressione to lock horns, letteralmente incastrare le corna. Un'immagine rubata alle lotte tra cervi o di altri animali che, se di sesso maschile, ingaggiano lotte spesso mortali perché se le corna restano incastrate, i duellanti possono persino morire di fame. Incastrati. Horn significa corna di animale, ma anche corno nel senso di strumento musicale. E, in ultimo, clacson. To honk your car horn significa, appunto, suonare il clacson della propria auto. Tra le espressioni idiomatiche, to draw or to pull your horns, letteralmente ritirare le proprie corna, ovvero diventare più cauto nei propri comportamenti o almeno meno aggressivo. To be on the horns of a dilemma significa dover scegliere tra due possibilità ugualmente spiacevoli. To horn in, infine, phrasal verb regolare, to horn in, horned in, horned in, significa ficcare il naso. I'm sure she doesn't want us horning in on her business. Sono sicura che lei non voglia che ci impicciamo, interessiamo del suo lavoro. Tornando a Financial Times, notiamo l'uso di run up, che non è in questo caso un phrasal verb, bensì un sostantivo, e il significato cambia. To run up significa sfidare, affrontare. The government is running up against considerable opposition in tax reforms. Il governo si trova ad affrontare una notevole opposizione sul tema della riforma fiscale. Il sostantivo invece indica un percorso, reale o figurato. During the run-up to the election, there will be several debates. Nel periodo che porterà alle elezioni si terranno numerosi dibattiti. We will see an increase in spending in the run-up to Christmas. Da qui a Natale assisteremo a un aumento dei consumi. Sono molti i phrasal verbs legati a run, verbo irregolare, to run, ran, run, il cui significato principale è correre. To run into significa imbattersi in qualcuno, to run out of something significa terminare una cosa, to run around vuol dire accompagnarsi spesso con le stesse persone e to run over significa investire qualcuno oppure, in senso figurato, ripassare una lezione.